cuffie nelle orecchie e comunque vada, troppo il calore di questo sole sveglierà. Faccio la valigia, chissà dove porterà. Chiamo amici perché con loro partirò, un'altra estate per sempre ricorderò. Sento già quelle sbronze fatte di momenti, a ridere e fare cazzate come incoscienti. E quella donna che piscina tu guarderai, e a quell'altra che chiedi stasera uscirai. Quel pallo che prendi ma non ti butti giù, perché tanto la sera qui ti spacchi tu. Quella canzone che suonerà col DJ, e nel mio orecchio sento dire ma che gli farei. Gonne così corte da perdere la testa, e questa vacanza è tutto ciò che resta. Fai veloce e prepari in fretta la valigia, si guarda un'altra estate e fino a mezza inizia. Fai in fretta che io torno qui a casa mia, e sono giù da te tempo, una bugia. Metti dentro il sorriso e lascia quel dolore, che io quest'estate voglio che sia migliore. Forse sì, il problema che io avrò sarà quando prima o poi a casa tornerò. Si parte finalmente, noi ci siamo tutti, gli amici dei momenti belli e di quelli brutti. Si inizia con lo stereo, beh questo lungo viaggio, e chi poi dal finestrino si guarda il paesaggio. L'anima gemella tu dici che incontrerai, ma quando è finito tutto non la rivedrai. Metti la canzone di tutta quest'estate, e poi la raccomandazione, non mi taggate. Sarà un naufrago dell'estate che vivrò, al massimo un saluto a casa io manderò. Ora fermiamoci qui a fare la benzina, fai una foto e ricorda questa mattina. Torna svelto in auto così riprende il viaggio, prendi il telefono e avvisa quel villaggio. Finalmente sì, la nostra estate sta iniziando, a gridar più non posso, stiamo arrivando. Fai veloce e prepara in fretta la valigia, si parte un'altra estate e finalmente inizia. Fai in fretta che io torno qui a casa mia, e sono giù da te tempo, una bugia. Metti dentro il sorriso e lascia quel dolore, che io quest'estate voglio che sia migliore. Forse sì, il problema che io avrò sarà quando prima o poi a casa tornerò. Appena arrivati andiamo subito in piscina, e farci notare come una statuina. Cazzo guarda quella come sta guardando, e tu che dici ehi baby sto arrivando. Vai veloce e prepara in fretta la valigia, si parte un'altra estate e finalmente inizia. Fai in fretta che io torno qui a casa mia, e sono giù da te tempo, una bugia. Metti dentro il sorriso e lascia quel dolore, che io quest'estate voglio che sia migliore. Forse sì, il problema che io avrò sarà quando prima o poi a casa tornerò. Trasformati negli uomini della notte, tra discoteche e soprattutto tante cotte. L'estate è così breve che purtroppo finirà, e alla vita normale si ritornerà. Ma nel frattempo goditi ogni momento, ma soprattutto sorridi e sii contento. Scatta una foto e ricorda ogni emozione, come quando ascolti questa canzone.